Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:19 minuti, anzi 8:20 minuti. 8:21 minuti tra un po'. No, sì, io ero infrancato da un brodino di tre punti. Ha preso con eroico Cipiglio, quel di Bologna. Si compiono delle buone, anzi, per certi versi eroiche imprese, bisogna essere contenti e solidali. Certo. Il Milan ne manda in campo 8 ormai, visto che con 9 riesce a vincere, la prossima volta saranno 8. No, invece oggi sei stato troppo buono con Meazza, dovevi essere un pochino più siamo dietro. L'amicizia ti fa velo, questo è il punto. Lo so, ma è inevitabile che sia così, ed è anche giusto che sia così, perché noi siamo tifosi, Alessandro, ma non siamo matti, perché lo seguiamo con distaccata e talvolta, a seconda delle squadre, rassegnata ironia. Sì. Diciamo con entusiasmo e disperazione, soprattutto ultimamente, No, perché pensa alla noia per chi tifa squadra che non danno loro l'ampia gamma delle sensazioni della vittoria, ma anche della sconfitta, noia, vincere del successo, ma anche del fallimento. È meglio una squadra che ti dà l'intera panoplia. Ecco, consoliamoci così ogni tanto. Vabbè. Allora, i santi di oggi, Santa Apollonia. Apollonia, dovete sapere che è una santa popolarissima nei primi secoli del cristianesimo, è una martire ad Alessandria d'Egitto. Siccome nel terribile purtroppo rito del suo martirio iniziarono con l'estrazione dei denti, è diventata la patrona popolarissima all'inizio del cristianesimo, appunto, di chi aveva mal di denti e dei dentisti, al punto tale però che tanto si moltiplicarono le sue presunte reliquie che Pio VI, a metà del Settecento, papa pontefice, disse: sentite, mi sono un po' rotto le scatole, fece ordinare in tutti i vescovadi italiani le sole presunte reliquie dentarie di Santa Apollonia, e ne raccolsero un baule di 4 kg e disse: buttatele nel Tevere, perché o diamo segnali concreti che la dobbiamo smettere con questa impostazione un po' troppo credulona, oppure perdiamo credibilità. Ogni tanto bisogna ricordare che ci sono stati anche papi di questo tipo. Devi sapere, c'è anche oggi Sant'Altone, San Marone, che non è parente di un noto governatore della regione Lombardia, due San Sabini, uno di Avellino e di Canosa, ma io voglio ricordare di questo 9 febbraio una sola cosa, che non è l'anniversario della nascita della Busiarda, cioè della stampa a Torino, la torinese, anche se l'ho raccolto comunque, ma devi sapere che per noi minoritari giovanetti che avevamo in tasca la testa del Partito Repubblicano negli anni 70, eravamo l'Amalfiani, Mazziniani, Garibaldiamo, questi miti pazzeschi dell'Italia, questa era la grande giornata di festa. Perché che cos'è il 9 febbraio? È l'anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, con Mazzini che caccia il Papa e con la Costituzione che per la prima volta in Italia introduceva il suffragio universale, tra l'altro, e il cui primo articolo dichiarava che il Papa era decaduto da ogni potere temporale. E noi eravamo così pieni di questo entusiasmo risorgimentale che cantavamo dei coretti, che qui ti risparmio, con delle sarebbe canzoni anticlericali. No, beh, ma io credo che non capirebbero gli ascoltatori, penserebbero che siamo matti, però veramente noi ancora le studiavamo e le cantavamo. C'era una che faceva: bruceremo le chiese, gli altari, bruceremo le ville, le regge, coi budelli dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e il Re. E il refrain era ancora più sanguinoso, perché diceva: il Vaticano brucerà, il Vaticano brucerà, il Vaticano brucerà, col Papa dentro. Pensa un po', io mi pento di aver cantato queste cose, però è un pezzo della storia che va preservato. Non so se siamo ancora in tempo, ma Massimo Giletti, che vogliamo salutare, possiamo trovare un posto a Sanremo? Però direi di no, è meglio di no, è meglio di no. Direi che su Rai 1, insomma, questi cori sarebbero complicati. Hai ragione. Su Rai 1, hai ragione, Massimo. Hai ragione. No, conservo a proposito, però ti do 30 secondi. Sì. Conservo una cosa molto bella che era comunque piacerebbe molto a Salvini, ecco, perché già allora, proprio a proposito della Repubblica Romana, vennero fatti delle specie di bot, chiamiamole dei bot, dove c'è scritto: sosteniamo i romani, la popolazione romana, donate una certa quota. È vero, è vero. È molto interessante qua, con la prima di Garibaldi, se no. È vero, è vero. Allora, abbiamo chiamato Massimo Giletti, conduttore dell'Arena, che poi, però in questi giorni è a Sanremo, in prima fila. Ieri ha preso anche una pallonata. No, ha preso una pallonata, sì, ha visto che sì, va bene. Non fate come i tifosi dell'Inter. No. Si sa che essendo ma Juventino, perché era emozionato, vabbè. Totti, dai. No, l'abbiamo chiamata perché insomma ieri è apparso questo e oggi tra l'altro sulla stampa continuano dei documenti, oggi ci si concentra su quanto spende la Rai per le fiction, 200 milioni di euro l'anno. Ieri invece tutti i conduttori Rai, c'era anche Massimo Giletti, che però si è un po' arrabbiato perché cos'è? No, io dico. Sono sempre un uomo di... Come faccio le inchieste, quindi io sono sempre per fare le inchieste, però francamente intanto diciamo per quanto mi riguarda, io parlo per quello che mi riguarda, sì. Quando leggo che si dice che bisogna fare chiarezza, se la chiarezza è dire delle menzogne, la stampa poi se la vedrà in tribunale, nel senso che basta poco, forse qualcuno che ha dato la stampa ha dato dei documenti, ripeto, per quanto mi riguarda, estremamente lontani dalla verità e quindi ne risponderà in tribunale. Quello che non è che non mi piace è la caccia alle streghe. Sì. Noi facciamo la RAI fa televisione e io sono sempre stato il primo, per quanto mi concerneva, sia quando venne Brunetta che sia quando venne Capanna, a dichiarare quanto prendevo. Poi se la stampa lo raddoppia è un problema della stampa. Ah, perché è questo, hanno raddoppiato la cifra, cioè quanto... Beh sì, Tom, io ho un minimo garantito di 333.000 euro lordi, loro lo fanno diventare 500.000 euro, al quale però aggiungono anche, come se io avessi preso 313.000 euro, no? Mm-hmm. Come se l'avessi speso come extra nell'anno, nello stesso anno, mentre invece si fa riferimento a tutto quanto io ho maturato negli anni. Se io devo fare, faccio un esempio, 3 serate di Mogol, ovviamente non sono previste perché sono degli extra, sì. Perché io vengo diciamo, messo sotto contratto per l'Arena, per quello che faccio la domenica, tutto quello che è fuori poi esula da quello, sì. E quindi ha una retribuzione, ma questo è quanto mi riguarda. Ah, quindi sono 333.000 lordi e non, sì. 500 come... Non 500.000 come scritto, quindi stiamo parlando di un professionista. Io quello che vorrei dire ai signori della stampa o chi fa queste inchieste, vengano le inchieste, per carità, però noi siamo dei professionisti, siamo sul mercato, secondo me dovrebbe esserci anche su di noi la trasparenza, perché non vedo perché non si debba dichiarare quanto si guadagna. Ripeto, io l'ho dichiarato a Brunetta quando venne, il quale mi guardò sbalordito, quando lei quanto prende, mi puntò il dito, sì, mi ricordo, quanto prende, ricordo, quanto prende, quanto prende, quanto prende, però non, mi guardò e ma gli altri non me lo dicono, è problema degli altri, ognuno risponde a se stesso. Non mi piace però adesso fare un'esasperazione di questo, i professionisti, la RAI ha bisogno di involti forti. Mi piacerebbe che la RAI si domandasse quanto fa guadagnare Giletti col suo programma che fa ogni domenica 4 milioni di persone col 22% di share all'azienda RAI. Questo è l'approccio che anche a Oscar piace, no, quell'approccio economico, No, ma anche perché io per esempio, siccome va riconosciuto che Giletti lo ha dichiarato, quindi non è uno di quelli che si tira indietro. Dopodiché Giletti pone una questione fondamentale: non dipende dai conduttori, dai giornalisti conduttori o dai conduttori di programmi di intrattenimento, che la RAI sia un'azienda che è insieme pubblica per la missione di servizio pubblico e che poi oltre al canone di servizio pubblico però abbia anche la natura e le risorse di servizio di offerta televisiva commerciale e privata, perché non lo decide Giletti, non lo decidono i conduttori di trasmissione. Finché è così, la parte che fa lo share di ascolti, la raccolta sul mercato in concorrenza con i privati, si deve porre l'obiettivo di ottenere successo, oltre che di essere fatta il meglio possibile. E da quel punto di vista, ecco che fare il 50% di Sanremo, io posso non guardarlo, ma non posso non sapere, se sono un professionista dell'informazione, che è facile dirsi, ma è un po' difficile di non farlo. E allora a quel punto sai com'è, la gente va premiata e pagata per quello che fa, con criteri di mercato. Ecco, il problema, Giletti, è che voi finite nel mirino, perché, pur incolpevoli, la RAI ha insieme questa natura di servizio pubblico con il canone, e la gente dice: però per il canone io avrei diritto solo al servizio pubblico, conta meno lo share, conta di più la qualità, e a quel punto vorrei anche retribuzioni meno folli. E questa è la cosa su cui l'informazione ovviamente ogni tanto schiaccia il pedale e segue l'incazzatura della gente. E sai che è così, però, no? Che c'è questa componente da parte anche di chi ti ascolta. Io, sai, poi quando vedo altre cifre molto importanti, poi uno è liberissimo di chiedersi come mai sono così alte, eccetera. Non mi piace parlare degli altri, io parlo del metodo. Mi sembra fare una caccia, la stessa attacco che hanno fatto a Carlo Conti per il suo compenso di Sanremo. È storia, quanto porta Sanremo alla RAI? Sanremo è il programma più importante della RAI, e si gioca veramente il futuro della RAI per certi versi sul blocco di Sanremo. Se va bene Sanremo, c'è tutto un indotto pazzesco che per la RAI va avanti. Visto poi lo scemo, noi produciamo la fiction, ma riesco per... allora cosa volete? Una RAI che faccia solamente Quark, che faccia i documentari sugli animali, che faccia le cosette, tutto tranquillo. Quindi chiaro che la RAI non vuole dire forse quanto prendono i propri uomini, perché se Mediaset scoprisse quello che guadagno io e poi scopre che io faccio il doppio della D'Urso, ma come, questo lo paghi, non lo pagano, un'altra la pagano. Ma è ridicolo fare cazze le streghe su qual è la verità, una sola. Tu quanto fai, quanto dai alla RAI? Un minimo garantito, poi più di quanto, in base a quanto fai incassare alla RAI. Questo potrebbe essere, secondo me, la cosa più onesta. È una cosa meritocratica, dobbiamo, che guarda anche allo share. Ma stiamo scherzando, siamo 10 persone, 15, chi sono i numeri, quelli che contano la RAI, conduttori del conto? Siamo veramente pochi. Mm-hmm. Più vai bene, più sei forte, più devi essere pagato, secondo me, perché tu crei denaro per la tua azienda. Questa, se i tuoi programmi vanno bene, perché... io ho 15 minuti di pubblicità all'interno del mio programma. Valutate voi quanti spot passano e quanto minimo possono immaginare quanto vengono pagati in due puntate. Giletti già pagato. Poi devo dire una cosa per concludere, Massimo. Vedi che ci sono, cioè, poi lo dico io, il qualunquismo di chi ci scrive: ah beh, 300.000 euro per lavorare 3 ore a settimana. E certo, perché uno pensa, siccome va in onda 3 ore a settimana, certo, lavora 3 ore a settimana. Poi la gente che non può capire quanto ci va di lavoro durante la settimana, sei in grado anche di buttare a mare, come abbiamo fatto noi venerdì, tutti i programmi su cui abbiamo lavorato tutti. Cioè, l'onestà di dire quello che si è, questa è una cosa diversa da scrivere il falso. Sono due cose, attenzione, quando tu scrivi il falso, ne rispondi però, perché tu non puoi raddoppiare le cifre stabilendo determinate così, non sono quelle criteri logici, evidentemente le talpe che sono dentro sono quelle che ti fanno dire che questo vuole, perché non si spiega diversamente un errore così grave. Un giornale serio con la Stampa non dovrebbe farlo. In ogni caso, Massimo, noi ti ringraziamo, ti lasciamo a Sanremo. Hai solo questo grande difetto di essere juventino, ma per... A parte questo, per ieri, me e per ieri, Oscar, perdona, lo dico anche a Gilles. Ieri la soddisfazione che Radio 24 ha sentito il presidente del mio Toro prima che parlasse Veltroni ieri pomeriggio. E il presidente del Toro, che era scritto tra i club che sostenevano i 13 piccoli club. Oscar non vuole Veltroni solo perché è Veltroni non juventino. Non è vero, io penso che la legge Veltroni al calcio italiano del 96 ha fatto male, ne ho scritto molte volte, ma non ho nessun pregiudizio su Walter Veltroni e la sua simpatia juventina. Però il presidente del Toro ha detto non è l'uomo adatto. Ma se l'altro giorno e due ore dopo Veltroni ha dovuto dire sì, non ci sono le condizioni. Cairo non ne sbaglia una. Va bene, sì, fuori dal campo. Io dico solo che dalle parti in cui la Juventus ha giocato ieri, Ercole aveva colpito a morte l'amico Cortone, storicamente, che l'aveva scambiato per un ladro, no? Era un rischio comunque giocare in quelle parti, perché si sottovalutano le partite. E invece la Juve non lo fa. La notizia è che la Juve ha vinto anche ieri. La notizia, ma la accogliamo con rassegnato culto della superiorità juventina. Va bene. E anche che Higuain non va bene alla Juve. Va bene, grazie. Massimo, buon Sanremo, ovviamente. Grazie Massimo Giletti per essere stato con noi. Insomma, io sono arrabbiato almeno sulla questione cifre. quella sì, anche sì, diamogli atto, l'ha detto 3-4 volte, ma con un equilibrio espressivo. Sai, stare a Rai 1 abitua a limare anche il modo in cui si parla. Non è un caso che quando io ho condotto Batti Ribatti, il cavalier Berlusconi dopo 3 mesi mi ha detto ciao Giannino fuori, perché ero un po' più intemperante, per così dire. Però detto tutto questo, siccome tutto questo nasce da un fatto, i politici però di volta in volta, pensa Renzi, Renzi aveva promesso una mega riforma della RAI, poi arrivano lì e semplicemente se ne impadroniscono, come ha fatto lui cambiando la legge sulla RAI, che ha un amministratore delegato che risponde al governo solo dall'orto. L'avete sentito ieri, no? Che i membri del consiglio di amministrazione neanche le sanno le cifre dei conduttori. Allora, naturalmente, i conduttori, giornalisti e dell'intrattenimento pagano questo, che la gente si incazza poi se di volta in volta la politica gli promette parleremo seriamente di che cos'è il servizio pubblico, visto che bisogna giustificare i soldi del canone. Poi la politica non lo fa e la gente legge i compensi e magari non capisce cosa c'è dietro. Io poi penso che alcuni siano veramente ipergonfiati. Non penso quello di Giletti, penso che siano ipergonfiati perché la RAI è anche poi una lotta tra grandi agenti, sì, tra i Presta, i Caschetto, che sono i monopolisti veri dell'offerta dei palinsesti, cioè quelli che hanno nel proprio portafoglio le star che fanno più share o che come ospiti fanno alzare il picco di ascolto dei programmi. Quello è un elemento per esempio che in RAI a me non piace per niente e penso che il consiglio di amministrazione se ne dovrebbe occupare molto seriamente, perché c'è un giochetto di ospiti che rimbalzano tra conduttori che appartengono tutti allo stesso portafoglio di agenti, che secondo me non è proprio e non è corretto per il servizio pubblico, ecco, per dire. In ogni caso, noi tra l'altro tra poco avremo, diamo anche il numero di telefono 800 24 00 24, dopo la pubblicità avremo un altro conduttore televisivo che in Rai c'è stato, adesso è a Mediaset, vale a dire Nicola Porro, e quindi dal punto di vista sia da una parte e dall'altra, e quindi state con noi che continuiamo a parlare di questo tema. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alle 8:39 minuti. Oscar sta vedendo tutti gli sviluppi dell'economia e del decreto. Tu e Meazza sottovalutate una cosa: lo sciopero dei commercialisti per la prima volta dei 20 giorni per fare saltare le scadenze di gennaio. Ed sì, è per la prima volta uno sciopero nell'interesse. Non proprio, perché ci guadagnano di più con i commercialisti con l'aggravio dei degli adempimenti per noi partite IVA. E questo sciopero per la prima volta ha portato il ministero proprio ieri, in questi giorni, a doversi confrontare seriamente, perché sennò lo Stato non incassa. Posso dire? Questo sciopero mi piace, ma non perché è nel mio interesse come partita IVA, perché è uno sciopero che si propone qualche cosa che è di interesse pubblico. Perché, ripeto, i commercialisti con i maggiori adempimenti previsti dal governo ci guadagnano perché beccano più soldi da me, che sono i loro clienti, dico da me come da tutti. Allora, questo è uno sciopero di cui bisognerebbe parlare di più, di più. Non so, su questo tema magari in realtà l'abbiamo chiamato per un'altra motivazione. No. Collega Nicola Porro, conduttore di Matrix. Buongiorno Nicola, eccoci qua. Viva lo sciopero, viva lo sciopero che approvo. Incredibile, grande Nicola. Con le balle, con questa semplificazione abbiamo quadruplicato gli adempimenti fiscali nelle partite IVA. Io sciopererei con i commercialisti, lo dico perché oggi l'ho letto sul Sole che si sta allontanando, lo vedete sul Sole 24 Ore di oggi. Spero che non si allontani, è l'unica volta che sono a favore di uno sciopero. No, Nicola, adesso te lo facciamo ripetere viva lo sciopero in bianco, no, così lo usiamo come ricatto. No, ha detto solo su questo. Io sono testimone. In realtà, Nicola, allora ti abbiamo chiamato prima, abbiamo avuto Massimo Giletti che è abbastanza anche arrabbiato, ha detto querelerò la stampa, ma non fosse altro perché hanno scritto una cifra sbagliata, dicendomi che guadagno il doppio di quello che guadagno. Io l'ho sempre detto, guadagno 333.000 euro lordi, eccetera. Oh, qui c'è il tema, intanto, farlo sapere, è giusto che si sappia, no, tu sei stato in Rai, ora sei a Mediaset, com'è la questione? La questione è semplice, quando la Rai ti vuole cacciare via, come è successo nei miei confronti, pubblica su Repubblica, come è successo quando fece l'intervista la presidente della Rai, la Maggioni, fece un'intervista dicendo che io mi ero comportato male, e poi ci fu un boxino con il mio stipendio della Rai, che era 250.000 euro, che dovrebbe essere un dato segreto. Io me ne fotto perché non mi vergogno di quello che guadagno, e quindi quando uscì su Repubblica un dato segreto che nessuno aveva se non il sottoscritto, era evidente che era uscito dall'ufficio stampa di Parapà. Parapapini, vabbè, insomma, lo conoscete, no? L'ufficio stampa della RAI, e era uscito il mio numero, quindi viene utilizzato questo numero degli stipendi della RAI un po' come clava per a seconda dei tempi. C'ha ragione Giletti, cioè se lui vuol dire il numero e lo ha sempre detto Massimo, ma chi se ne frega, lo dice. Certo, qua siamo in un mondo per cui ci vergogniamo di fare la Ryder Cup, figuratevi un po' voi se non ci dobbiamo vergognare di guadagnare questi soldi che sono considerati obiettivamente tanti, no? E quindi in questo calderone i giornalisti, i conduttori entrano nel tritacarne. Sì, un po' è così. C'è questa cosa poi appunto di dire il rapporto con la ricchezza da parte degli italiani, ricchezza nel senso che si parla di uno stipendio alto rispetto allo stipendio, è sempre un rapporto complicato. Però no? Gli italiani sono coltivati da decenni, da intellettuali, politici, giornalisti che gliel'hanno insegnato a disprezzare chi ha successo, chi ha pagato di più, come se rubasse. Attenzione, non è che gli italiani ce l'hanno nel DNA perché sono malati. No. C'è una cultura pluridecennale, di alcuni italiani che sono quelli che sono espressi sui giornali. Abbiamo fatto una polemica sullo stipendio di Conti, vi rendete conto? Sì. Una polemica sullo stipendio di Conti, voi andate su Twitter e trovate questi morti di fama che rompono le scatole perché Conti prende quei soldi da Sanremo, che è il più grande successo di Sanremo degli ultimi anni. Poi sono gli stessi che fanno la predica, ci vorrebbe più meritocrazia. Allora mi dovete spiegare cos'è la meritocrazia? Gli stringiamo la mano, gli diciamo bravo Conti, pacca sulle spalle. Se uno merita, un italiano su due ha visto la prima puntata di Sanremo, ma sarà da pagare questa persona? O se no la meritocrazia cos'è? Tutti quelli che chiedono la meritocrazia non è anche misurata dallo stipendio? Dico, ve lo chiedo anche a voi, non lo so. No. Anche perché poi facendo il 50% di share, voglio dire... E quanti soldi ha portato quello la RAI? È il pilastro annuale del palinsesto, come ci ricordava Giletti, c'è poco da fare. La cosa che però, secondo me, pagano i conduttori e i giornalisti della RAI è il fatto che i politici ogni volta, l'ho già detto anche a Giletti, promettono la riforma della definizione del servizio pubblico ed è per questo che la gente dice io pago, vorrei un servizio pubblico e a quel punto non vedo però perché milioni e milioni. E invece poi la RAI continua a essere con un'anima commerciale che a quel punto si misura con gli ascolti e quindi con gli stipendi e la raccolta del mercato. È un po' per questo che succede il problema. Però finché la RAI resta così e finché Renzi promette una cosa ne fa un'altra, tanto per essere chiari, andare al dunque, il problema è, caro Alessandro, che non si può dire la colpa è di chi in RAI viene richiesto di fare ascolti, perché la colpa è della politica che non cambia sistema. Io non so come la pensa bene Nicola, perché Nicola su questo è d'accordo con me sul fatto che bisognerebbe mettere mano alla RAI, però se lo chiamano a fare una trasmissione non è che può dire me ne foto degli ascolti, o no? È un po' una contraddizione, non so come dire. È una contraddizione micidiale, perché cosa succede? La RAI ragiona in termini di mercato e quindi strapaga gli autori e i giornalisti e i conduttori che fanno bene. E secondo me fa bene, Oscar, cioè se io pago tanto, uno che mi fa il 50% faccio bene. Ma a quel punto però il tetto vale solo per i manager RAI, che contemporaneamente sono quelli che dovrebbero mettere in piedi il tutto. Ma è una cosa assurda, io c'avevo il mio direttore di rete che si chiama Teodoli, che era un fenomeno, o tanti altri dirigenti RAI che sono degli sconosciuti al grande pubblico, che gli hanno messo il tetto e che è gente che invece sta sul mercato. Ma dall'altra parte ci sono delle pippe assurde in RAI, che ragiona di mercato su Conti, ragiona di mercato su Sanremo, ma su di loro ragiona come una specie di come possiamo dire, di cassa del mezzogiorno, e non ne fa fuori uno di questi. E questo non va bene. Cioè io dico, è inutile che ci concentriamo su Conti, che prende tanti soldi e fa bene a prenderli, così come Massimo Giletti. Guardate che Giletti, che ha parlato prima, fa 4 milioni di persone la domenica. Ma chi li fa 4? Adesso non voglio parlare bene solo della RAI, che sembra che parlo. Beh, ma è così, perché preso Conti e Giletti, che sono due fenomeni, però per due fenomeni vado a vedere che fanno continuano a mantenere in RAI dirigenti che non fanno assolutamente nulla, o giornalisti che non fanno assolutamente nulla. Questo è assurdo, non che sia pagato e strapagato. No, ma infatti. Allora, perché quando Nicola Porro dice dov'è il merito, allora la mia risposta è: il merito si vede da una cosa, cioè, per esempio Mediaset e Sky ottengono risultati non avendo il canone pubblico, ma dovendo contendersi solo le risorse del mercato, che a bevere anche la Rai, però se vuoi vedere, Alessandro, nel bilancio la proporzione tra giornalisti e dipendenti tecnici eccetera eccetera, ecco, la Rai ne ha quattro, quasi cinque volte di più, ecco. Allora, quello vuol dire che sono organizzati meglio, capisci? E si vede. E perché? Perché in Rai ci sono tantissimi figli della politica sedimentata nel tempo che rispondono all'identikit che ha appena disegnato Nicola, che beh, magari stanno lì da anni, non sono misurati per niente, pure i loro show li pigliano. Questo è come, insomma, la politica secondo me è il vero nocciolo della questione. Per parlare di politica, ma giusto Nicola, per sorridere, oggi mi faceva notare Oscar che Mario Aiello sul Messaggero scrive un pezzo con una lettura politica dell'Unione Conti Maria De Filippi in chiave, come dire, Nazareno bis, no? Si provano le grandi manovre di riavvicinamento Mediaset, dunque Berlusconi e, come dire, la Rai, no? Ma quindi la politica, scusa, tu vuoi pensare davvero, Maria conta tanto e decide per sé, ma siamo così sicuri che con Fallonieri non abbia avuto... Ma se i giornali raccontano che Gianni Letta infatti pare che stia brigando, incontrando... Brigando, non usare questo termine su Gianni Letta. No, che succede, Nicola? No, una lettura politica. No, politica ed economica. Bisogna andare a votare oppure, come dice oggi D'Alema, lo spread va a 400 e quindi no? Allora, ogni stagione, non vorrei parlare come un grande romanzo russo, ma c'è un buon motivo per essere infelice nell'andare a votare. Quindi se vogliamo trovare un motivo per non andare a votare a marzo, ad aprile, a maggio, giugno, anche a scadenza naturale potremmo non andare a votare. Quindi io questa roba qua, che non si deve andare a votare, come disse Calenda, come dice oggi D'Alema, cioè il sacro e profano a giugno perché arriva lo spread, allora con questo scusa possiamo, non andremo a votare manco nel 18 perché sarà talmente grave la situazione dei nostri conti pubblici nel 18, visto che gli interessi saliranno, quindi il debito dovremo pagarlo, che sarà ancora peggiore la situazione del 18. O comunque, se Calenda fosse così certo che nel 18 le cose sarebbero siano migliori, ce lo dica, io non riesco a capire per quale motivo dovrebbero esserlo. Ma comunque il vero punto è che alla tua domanda rispondo semplicemente: se qua fanno un sistema proporzionale è del tutto evidente che cercheranno di fare tutti gli accordi possibili e immaginabili. Sì. Cioè, è del tutto evidente. Sì. Quindi tutti con tutti. Tutti con tutti. E infatti, siccome è l'ultima versione, pare, dei festival di Carlo Conti, Carlo Conti avrà l'incarico dal presidente lo sai che Crozza già ha vaticinato, rivolgendosi a lui e Maria De Filippi, avete la maggioranza, vi do l'incarico, facendo mattare. Dai, ringraziamo Nicola Porro, grazie Nicola, ovviamente conduttore di Matrix su Canale 5, grazie per essere stato con vedo noi. Che i nostri ascoltatori pensano che stiamo difendendo la casta dei giornalisti. No, tentiamo di spiegare le colpe dei politici e l'accanimento in questa natura, direi, ircocerba pubblico e privato. Come vedete, c'è una parte privata che ottiene gli ascolti e ha prezzi di mercato, c'è una parte pubblica che spiega perché la Rai è fuori mercato per il suo organico e i suoi costi, e io la vedo così perché i numeri mi dicono questo. Esatto. Oscar, però noi dobbiamo concludere la puntata con un ospite che abbiamo già avuto di recente. Massimo D'Alema. Non l'abbiamo mai avuto. Berlusconi, per spiegarci, l'hai vista? La cosa che vuole il reddito di cittadinanza pure lui sulla stampa. Silvio, insegue l'elettorato sceglie originale, non la copia, stai attento. sì, ha visto, pare che tra i poveri, lo uso come parola con massimo rispetto, ci siano i voti da prendere. E quindi ha messo Brunetta a scriverlo il reddito. Vabbè. Che copia i 5 No, invece stelle. Abbiamo richiamato il sindaco di Bolzano, Renzo Caravaschi. Buongiorno sindaco, grazie. Buongiorno a tutti voi. Che è stato, come dire, devo dire, vittima di quella omaggiato di una pagliacciata. Però è assente la persona che l'ha fatto, dobbiamo essere rispettosi. No, cioè, però non lei diciamo... ha detto pagliacciata. Allora, Eva Klotz, sì. Che le ha consegnato insieme a un collega di partito. A due colleghi di partito. Che cosa? Un busto di... Un busto di Mussolini dorato, volendo imitare il tapiro di Canale 5. Perché io avrei fatto la colpa di... stiamo facendo restaurare una lupa capitolina che era lì da oltre 80 anni, che pendeva da un pennone alto 30 metri che rischiava di accoppare qualche cittadino, e quindi la stiamo restaurando e poi faremo una copia per ripristinarla e porla al suo posto per la tutela dell'insieme. Allora la separatista Eva Klotz, l'indipendentista nazionalista e separatista, sì, ha detto lei è come Mussolini, la lupa capitolina. Voleva far passare come Mussolini, sì, ma ha sbagliato soggetto, sa? C'è uno zio morto in Africa mandato dal fascismo, un genitore ora morto ma invalido di guerra, sempre per colpa del fascismo, sempre stato di centro sinistra che ha lottato per l'autonomia di questa terra, e le pagliacciate, mentre io sto iniziando una conferenza stampa, non vanno tollerate, perché questi sono nazionalisti, ma anche neonazisti, sa, questi festeggiano l'8 settembre non perché è caduto il fascismo, ma perché le truppe del Reich sono entrate in Tirolo, sono entrate nel Trentino, nella provincia di Belluno, hanno fatto l'Alpenvorland, integrandolo nel grande Terzo Reich, e quando c'è il 25 aprile, grande festa della democrazia, loro non la festeggiano perché l'Alto Adige è stato staccato definitivamente dall'Austria. Questi sono i soggetti. Ma sei molto arrabbiato, l'ha spaccata, sì, però l'ho presa e l'ho buttata a terra, certamente non mi faccio offendere da questi piccoli nazionalisti neonazisti. No, io scusi, neonazista, guarda, non lo so, neonazista. Sono separatisti, indipendentisti da no, sé. Le ho appena spiegato che loro festeggiano. Posso dire, visto che sono conduttore, signor sindaco, no? Sì, prego. Ah, ecco, perché non mi può spiegare una cosa che ho studiato anch'io. Allora, il separatismo etnico prescinde anche dal Terzo Reich, non si identifica col Terzo Reich, sono anche separatisti con la memoria di Cecco Beppe, certo. E lo sa meglio di me, quindi non approfitti del fatto che, allora, ripeto, io che pure sono uno che pensa che la guerra sia finita da tempo, penso, sì, come voglio, perché lo sa meglio di me, basta andare a vedere gli Schutz nei ritratti di Cecco Beppe, non di Adolf Hitler, quindi, per favore, detto questo, quello che mi colpisce è che la Klotz, che conosciamo da decenni, che è intransigentemente coerente al suo separatismo e che ha fatto anche lotta armata e robe condannabili dalle corte penali come sono state fatte, però detto padre, questo, secondo padre, me i movimenti in cui si è sempre identificata, ma detto questo se è riuscita nella provocazione di farle parlare ancora con questo tono della questione etnica, è esattamente quello che voleva, forse ci vorrebbe un tono diverso, tutto qua. Ma infatti, guardi, questo però rimane una pagliacciata. Ho respinto il Duce, l'ho gettato e l'ho rotto perché sono antifascista deciso. Lei dice giustamente che essere separatisti non vuol dire essere neonazisti, però le dico e le ripeto che uno dei componenti, il signore Le Costa, che era insieme alla Klotz, lui festeggia come l'8 settembre perché sono entrate le truppe del Reich, sono le truppe tedesche dell'epoca, lo so, ma si figuri. Nazisti, e sai, quando noi festeggiamo il 25 aprile è caduto il fascismo, è tornato la democrazia, lui non la festeggia. Qua attenzione, bisogna stare attenti, non, per favore, non semplificate, io richiamo solo questa attenzione, che spesso c'è l'identificazione, lei fa bene a distinguere, essere nazionalista non vuol dire essere fascista o essere nazista, però le due cose sono facili, perché in consiglio comunale c'ho anche tre consiglieri di Casa Pound che sono molto nazionalisti italiani, ma sono anche neofascisti, e la Eva Klotz, che io rispetto per la lotta, perché può avere la sua idea di annessione all'Austria del Tirolo, cioè lei è legittima di fare la sua battaglia, ma quando componenti del suo partito festeggiano certe date in un certo modo, allora diventa sospetta la cosa. No, così lei ha reagito, così, un po' di rabbia per questi motivi che ci ha spiegato. Sindaco, la ringraziamo, grazie per essere stato con noi, sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi. Lo sai, no, che in Veneto, dal Veneto alla Campania, c'è ancora chi considera annessioni con la forza il risorgimento. Se usiamo questi toni non riusciamo più. Io rispetto il sindaco, ma sono convinto che non. Ma no, io non capisco che il sindaco, dire, antifascista, farsi dare non del Mussolini. Non è questo il modo, perché ci sono problemi peggiore per lui, no? Che sono stati risolti nel dopoguerra su questa storia delle minoranze etniche. Per star buoni, c'era poi il mondo diviso in due, e che hanno ancora le questioni risolte. Quindi, però io la penso così. D'accordo, fermiamoci qui, a domani. Ciao a tutti.